Eh? Fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è siamo dubbio. Tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate, sì, di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con questa storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Viva i frasi, viva i frasi. Presidente dell'azienda ha detto che nei suoi spot non ci saranno mai famiglie omosessuali. Su questo? Un povero cretino, non so più che altro, non so cosa dire, cioè inconsistente. Non sto nemmeno a segnalare una cosa del genere, anzi, beh, basta parlare di Marina, cosa ne parlate a fare? Ah, questo era Vecchioni, il cantante Roberto Vecchioni, che dice che Barilla è un povero cretino inconsistente. Andiamo al Nobel, signor Vecchioni. Tanto Vecchioni è direttamente interessato alla faccenda perché ha una figlia lesbica, che ha una compagna, e dunque si è espresso. Beh, ma forse non l'ha detto. Si è espresso per anche questo. Per questo. Devo dire che considerare Barilla un Barilla, un piccolo lapsus. Era veramente un errore, ma non era un lapsus. Barilla un povero cretino inconsistente. Ecco, considerare Barilla un povero cretino inconsistente, francamente, da parte del signor Vecchioni, da parte del signor a me piace moltissimo, Vecchioni. Che, ho capito, a te piace perché sei di sinistra. No, perché canta molto bene, belle canzoni, però scivolata clamorosa a livello mondiale, quello sul Barilla, a livello mondiale. Mondiale, zanzara citata da telegiornali di tutto il mondo. Al Jazeera, tutto il mondo, tutto il mondo. E poi, a dire la verità, tornando sulla faccenda, caro Parenzo, aveva iniziato pure bene con noi il signor Barilla, perché aveva dato, per esempio, alla Boldrini della patetica, sì, per le sue critiche agli spot. Dunque, su questo ha ragione. Aveva fatto, sì, ha ragione. Io credo che su questo abbia ragione, signor Barilla. Aveva fatto una grande tirata contro il presidente della Camera, che si permetteva di mettere bocca su come devono essere fatti gli spot, dicendo che la donna non può servire a tavola. Si fosse fermato lì, il re dello spaghetto. Si fosse fermato. Barilla sulla Boldrini. Io ho pensato che il presidente della Camera che si abbassa a chiacchierare di pubblicità quando peraltro non ne ha le competenze è abbastanza patetico. Poi però tutto questo è stato dimenticato. Vabbè, Scalfarotto, uno dei parlamentari omosessuali, signor Scalfarotto. Vabbè, ma anche se non diciamo che è omosessuale, chi se ne frega, no, parlamentare. Vabbè, come non diciamo che è omosessuale? Ha fatto dell'omosessualità una sua bandiera, è lì e in Parlamento perché è omosessuale, diciamo. Ma io già giudico chi dice le cose indipendentemente da quello che è. Se Verdini un giorno dovesse dire una roba intelligente, io sarei il primo a riconoscerlo, indipendentemente dal fatto che è Verdini. Vogliamo riconoscere che alcuni sono in Parlamento in quanto omosessuali? Tu dici oppure in quota froci. Ma è così, in quota. No, ma perché hanno anche delle, rappresentano delle sensibilità, hanno delle cose da dire. Può darsi, ma sono in quota froci. Ma sono in quota froci. Una è in Parlamento perché è frocio, è omosessuale, frocio, lo dico in senso positivo. Allora no. Scalfarotto, ci saranno omosessuali anche in azienda, c'è la Barilla. Sentiamo. Un'azienda che non si rende conto che forse il 5 o il 10% delle persone che lavorano in quell'azienda sono persone omosessuali e che a sentire le cose dette dal proprio capo azienda avranno probabilmente minore motivazione a lavorare per quell'azienda, è una dichiarazione che non si spiega. Vabbè, la novità su questo che cos'è in realtà? È che il timore è quello veramente che la Barilla perda un sacco di quattrini a livello internazionale. Il timore in azienda. Noi stiamo semplicemente registrando, perché siamo contrari al boicottaggio. Beh, io personalmente assolutamente sono contrario al boicottaggio, penso che sia una buffonata. A Abbiamo con noi il senatore Maurizio Gasparri in diretta dalla Puglia. Buonasera. Buonasera a voi. Cosa è andato a fare danni in Puglia, signor Gasparri? A fare danni? No, ho delle manifestazioni in Puglia. Non ho chiesto il permesso a Parenzo. No, ma Gasparri è gay friendly o no, il signor Gasparri? È gay friendly? Ha aumentato il suo tasso, il suo consumo di pasta Barilla? Sono contrario alle discriminazioni, però ho ritenuto vergognosa l'aggressione che ha subito Barilla, sì, e se mi consentite ancora più penosa la retromarcia a cui Barilla ieri sera è stato costretto, cioè penoso, inseguito dai venditori di grissini, spaghetti e merendine, cioè, che sarebbero della sua azienda. Guarda che adesso noi abbiamo il boicottaggio, c'è tutta la campagna ostile, quindi rischiamo di vendere meno. E allora Barilla, che aveva detto una cosa innocente, non ha offeso nessuno, ha detto: io nella mia pubblicità rappresento la famiglia, faccio quello che mi pare, sì, come io la interpreto e come in fondo secondo molti di noi, secondo principi naturali, quella è la famiglia. Adesso se uno dice che rappresenta quella famiglia viene attaccato, viene aggredito e ha dovuto fare una marcia indietro, quindi alla fine aggredito dai suoi, polemico. E poi ci sono preoccupati, certamente l'avete detto voi poco fa, vi ascoltavo, perché il timore è di vendere meno, di Paghi un prezzo elevato, perché Gasparri comprerà più pasta Barilla da questo oggi, oppure perché, no? Perché ha fatto marcia indietro. Ne comprerò di meno perché non ha avuto il coraggio di difendere una cosa che aveva detto. Quindi io sono deluso dalla retromarcia. Deluso da Barilla. Beh, devo dire che su questo però ha ragione. Perché Gasparri, ma guardi, quando dice una cosa. In Italia ci sono almeno 3 milioni di gay. Lei vorrà avere i voti di questi 3 milioni di gay? Scusi, mica dico niente contro. È lo stesso Barilla, dice, no? Voglio fare lo spot, la famiglia in un certo modo, eccetera, e facciamoglielo fare. Mica uno ha detto orrore di questo, orrore di quell'altro. Senti, ma Parenzo, ma secondo te c'è qualcuno, c'è qualche gay che può criminalizzato? Un attimo solo, senatore. Parenzo, ma secondo te c'è qualche omosessuale che vota per il senatore Gasparri? Per il senatore Gasparri? Sì, qualche gay? Beh, su 3 milioni in Italia, cioè, c'è qualche gay che vota per lei, Gasparri? 3 milioni di gay in Italia, quindi qualcuno forse voterà anche Gasparri, forse. O no? Guardi, una volta mi ha detto qualcuno, Klaus Davi sostiene che io sia un'icona gay. Beh, tutti icone gay, adesso tutti però guardi, io purtroppo sono eterosessuale, che oggi è una condizione, come dire, considerata quasi vergognosa da occultare. Adesso è vantaggioso definirsi diversamente. Cioè, lei non mi dirà, che definirsi sono eterosessuale. Non mi dirà che definirsi gay è un vantaggio oggi, secondo lei? Beh, in qualche modo sì, lo sa, guardi. Ma in che settori, per esempio? Lei è discriminato? No, non è che sono discriminato. Ironizzo per sdrammatizzare. Adesso non so, con la legge sull'omofobia, se anche fare una battuta come questa. Quindi io dico, io purtroppo sono eterosessuale. Cioè, secondo lei finirà sotto processo? È un modo per ironizzare. Perché vede, poi se ci facciamo seri, le aggressioni, le violenze, le prepotenze vanno combattute, però non è che se uno dà uno schiaffo a Cruciani o da una donna o da un gay la cosa sia diversa. Ma secondo lei addirittura qualcuno, se ci fosse la legge sull'omofobia, qualcuno vorrebbe portare sotto processo, qualcuno può venire avanti di portare sotto processo? È una discussione molto seria, perché c'è il rischio, se non verrà corretta, che anche una affermazione critica, come quella di Barilla, uno dice sono contro i matrimoni gay, no, uno può essere a favore o contro, potrebbe, se la legge non viene meglio scritta, diventare un reato. Cioè uno Barilla potrebbe finire Barilla per esempio potrebbe finire sotto processo, secondo lei? Ma anch'io che sono contro i matrimoni gay, se lo dico posso commettere un reato, esprimo un'opinione. Se invece uno dice cose offensive, già oggi può essere punito. Certo che pure lei su Twitter qualche volta non si risparmia. Leggo che ha scritto a uno che l'aveva criticata, non so per che cosa, mamma tornata dal marciapiede, come se la madre fosse una puttana. Pure lei, ma pure non lei. Lo so questo, senatore Gasparri. Ci sono molti collaboratori che agiscono sulla rete, quindi questo l'ha scritta lei, ammetta, l'ha scritto lei, momento di io quello che ritengo offensivo è quello che circola sulla rete, c'è una capacità di offesa che è troppo. Lei ha risposto, ha scritto mamma tornata dal marciapiede. avrà risposto qualcuno al suo nome che gli sarà offeso, perché lei lo sa bene, perché lei è un grande navigatore, c'è una nell'anonimato c'è poi un dilagare di offese, poi se uno la scrive non bisogna cadere nella trappola, poi quando gli scrivono la Boldrini offese, c'è la mobilitare, la polizia delle comunicazioni, creare scorte telematiche, ma ognuno di noi riceve insieme a tanti plausi e apprezzamenti, critiche e minacce. Allora Dario Fo, Dario Fo, un attimo solo che torniamo. Dario Fo, questo è incredibile secondo me. Dario Fo invita Barilla, ricordando che lui era un testimone negli anni 50, nei prossimi spot promuova l'integrazione. Cioè, secondo Dario Fo, adesso Barilla sarebbe, non dico obbligato ovviamente, ma sarebbe insomma. Ma lo farà, perché per il mercato americano è fondamentale essere gay traffico friendly. E torniamo, perché qui Gasparri, lei ha firmato le dimissioni, Gasparri, sì. Finirà così, guardi. La firmate? Ah, adesso ci torniamo. La firmate le dimissioni dal Senato? Certo che le ho firmate. Siamo qui nel pieno della tormenta, caro Parenzo, nel pieno della tormenta sulla questione Barilla, ripresa dai giornali di tutto il mondo, 800 24 00 24. Com'è che finirà, Gasparri, secondo lei, che sarà obbligato? Che dovrà fare come Ikea la pubblicità, visto che ha fatto una pubblicità con i gay nel suo manifesto, vedrà che Barilla sarà calerà le braghe, anche pure contento, calerà le braghe, una cosa indecorosa, e tutti compreremo la pasta a Buitoni. C'è ancora la pasta a Buitoni, no? Ah, lei mi sta dicendo allora lei mi sta dicendo perché che se Barilla cala le braghe, io compro Buitoni, compro la pasta a Buitoni, che però ha già detto che invece è gay friendly, allora quindi ne compro un'altra. Qual è la pasta maschia? La pasta maschia, la pasta di Gragnano. Però abbiamo capito una cosa: la pasta di Livelli. Gasparri non vuole il voto di 3 milioni di gay italiani. Questo è il punto vero, perché ci sono io voglio che non debbano essere discriminati, ma neanche che debba essere imposto il contrario. Ma comunque dica una cosa, il voto dei gay non lo vuole. Il voto dei gay non gliene frega nulla, questo ma è il dato, perché se no di tutti, ci mancherebbe altro. Farebbe un'operazione di mercato diversa, accetterei perfino il voto di Parenzo. Ma mica è stupido come mica è ingenuo come Barilla, che è Gasparri a dire che non vuole, che se fa male da solo a dire che non vuole il voto dei gay. Io ci hai provato, il voto di tutti, ma ci mancherebbe altro. Però i gay non la votano, i gay non la votano. No, ma io conosco persone, un sacco di gay che mi hanno votato, lo dico, un sacco di gay che mi hanno votato, non lo so, io non ho nessun pregiudizio, ritengo che però le basi della società, della vita, la famiglia tra uomo e donna, perché poi se ci facciamo seri adesso matrimoni, adozione, cioè, scusi, se lei vedesse uno spot, se lei vedesse uno spot del Mulino Bianco con due omosessuali, uno che serve a tavola, le farebbe schifo questo spot? Le farebbe impressione? Mi dica la verità. Non lo so, non l'ho visto lo spot. No, le farebbe impressione, me lo dico. Non sarei d'accordo, sì, non sarei d'accordo. Lo destabilizza. Però, per esempio, ho citato prima un'azienda di mobili a poco prezzo, non ricordo il nome, se no faccio la pubblicità, che ha fatto Ikea. A casa mia ci sono acquisti in quel negozio, tra quella grande catena. Vabbè, ci mancherebbe altro che lei promuovesse il boicottaggio nei confronti di Lega, perché io boicotto chi mi pare, per esempio, no? Io che ne so, non mi piace Camilleri, no? E a casa mia ci sono alcuni libri di Camilleri, io sono dispiaciuto. Ma Dario Fo che ha detto Dario Fo? Dario Fo lasciamo perdere. Dario Fo vede la dimostrazione che tutti hanno una speranza, perché se danno il premio Nobel a Dario Fo, lo possono dare anche a Parenzo. Ma è stato l'orgoglio dell'Italia nel mondo. Ma possono dare anche a Gasparri, anche a Gasparri lo possono. Ma io sono escluso. Però ma dovrebbe essere orgoglioso Gasparri. Ce lo possono dare. Ma dovrebbe essere orgoglioso. È stato il modo per, come dire, squalificare il premio Nobel, insomma. Che ha fatto delle foto per il premio Nobel? Ma come che ha fatto? Ma lei dovrebbe essere orgoglioso che Pirandello vuol mettere. Senta, Pirandello di De Luca, di Harry De Luca, che è orgoglioso invece. Ma Harry De Luca è stato l'ex capo del servizio d'ordine di lotta continua. Ogni tanto gli riviene questo. Lei era il capo del impulso. Lotta continua e servizio d'ordine in buona parte, quando si sciolse lotta continua passò nelle brigate rosse, e De Luca no, ovviamente, però quando appoggia atti sconsiderati come quelli che si fanno è contento di essere stato indagato per istigazione alla violenza. Vabbè, io credo che abbia fatto un grave errore. Senta, a proposito di Berlusconi, di come finisce Rodotà, che eppure Rodotà tatatà. Rodotà tatatà sembra la cosa del Mitra, sembra il Mitra. Ha fatto quello scivolo, si è sbagliato, ha detto una fesseria e poi dopo ha cercato di avviluparsi dentro la fesseria. Se fosse stato un altro, fosse stato un altro, se fosse stato un altro, se lo sarebbero mangiato vivo. Solo che Rodotà, ma non c'è dubbio. guardi, Barilla, cioè lei pensi tra Barilla e Rodotà, ha detto una cosa molto più grave Rodotà, però Rodotà l'ha fatta franca, Barilla dovrà fare lo spot con i gay, vedrà, vedrà come dice. Questa però mi dica, Radio Gasparri. Mi dica la verità, Gasparri, lei che era diventato colomba a un certo punto, però quando chiama Berlusconi risponde come? Ma obbedisco. Quando c'è la battaglia obbedisco. Che fa, ci si schiera, ma è un fatto di squadra. No, mi dica la verità, quando Berlusconi chiama si risponde obbedisco. Ma guardi che non è stato manco Berlusconi, siamo stati. Vabbè, ma per dire, come espressione, come certo, ma non c'è dubbio, ma non c'è vergogno di questo. No, cioè, dica, risponda obbedisco, chiama Berlusconi, risponde obbedisco. Sì, ma guardi che quando si cita questa frase fa parte dell'epopea del Risorgimento. Beh, la famosa frase obbedisco sta nei libri di storia, perché quelli che la pronunciarono erano quelli che facevano l'Unità d'Italia e quindi voglio dire, l'esempio ricorda un po' anche il ventennio, diciamo. Beh, comunque obbedisco, lei dice obbedisco. Condivido, obbedisco, perché ritengo che bisogna essere tutti uniti nel momento supremo del confronto. Del sacrificio. Credere, obbedire, combattere. Credere, obbedire, combattere. Adesso l'equiparenzo subito comincia. Allora, Dio, patria, Gasparri. Senta, mi dica una possibilità. Quante percentuali ha il governo Letta di rimanere in carica fino a dopo Natale? Mi dia una percentuale. Stamattina ce n'aveva il 2%, l'1%. No, Nel pomeriggio, come vedete, comincia lo spread che lo fanno salire un po'. Il fondo monetario oggi, che comincia a dire un disastro, se levate l'IMU, che poi questi del fondo monetario, che non hanno capito un tubo della Grecia e hanno sbagliato le terapie per la Grecia, ci vengono a dire a noi come dobbiamo fare l'IMU. Ma se ne va da quel paese chi scrive questi pareri augusti. Però vedrà che già nel pomeriggio la campagna un po' di terrore. Le sue percentuali. Le sue percentuali. Al 25%. Adesso siamo Ma perché lei alla fine è governativo. No, non è che sono governativo, dico che c'è, ha visto la nota della Confindustria, delle cooperative, lei è fondo monetario. C'è un tam tam come è successo altre volte in Italia. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. È ancora a casa, Simo. Ruggisce tutta la notte. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Che mi graffia tutto, cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi, ma che mondo è questo ormai? Che cosa sei riuscito a trasformarlo, se non vuoi vedermi intorno? Allora, la Santanchè dice siamo tutti decaduti, il giorno prima aveva detto siamo tutti Berlusconi, l'altro giorno ancora aveva detto siamo tutti pregiudicati e adesso cosa dirà? Siamo tutti decaduti intanto. Sappiamo che siamo assolutamente uniti in questa battaglia drammatica, profonda, battaglia politica. E quindi non c'è quel problema, non so chi fosse il suo interlocutore, ma voglio dire siamo tutti decaduti. Siamo tutti Berlusconi. Siamo tutti Silvio Berlusconi. Beh. Vai avanti tu che io rimango. Letta da un'ora sul Colle. Letta da quale, Napolitano. Letta Enrico. Ah, c'è Enrico. Prima era stato Gianni Letta da Enrico Letta, lo zio dal nipote. Ma questa è la cronaca spicciola, la cronaca minuto per minuto di quello che accade, che non ci porta a nulla, mica facciamo i cronisti. Però ha fatto molto bene il signor Letta nella colloquio del signor Napolitano. Beh, no, ha fatto, ci doveva andare per forza. Ha fatto molto bene, perché accelera la crisi. Vediamo questi qui cosa fanno adesso. Dici, vuole far venire allo scoperto il bluff di Berlusconi. Gli titilla, è certo. Ha messo, come diremo noi, i coglioni sul tavolo. Detta proprio, no? Santanchè, la stabilità è basta. No. Ma che roba è? Ma che è Radio PDL, Radio Via della Scrofa, che roba è? La Santanchè. Stabilità, questo non è sbagliato, però. La stabilità è un valore solo nelle dittature. E dire che oggi l'arma di questa guerra, quella che usano tutti, è la stabilità. La stabilità, ma guardi che la stabilità non è un valore assoluto. La stabilità è un valore assoluto nei regimi dittatoriali. Perché io che voglio la stabilità nella mia organizzazione, nella mia impresa, nella mia famiglia. TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La Letta colloquio al Quirinale, il Presidente del Consiglio chiede alla maggioranza un chiarimento subito, senza se e senza ma. Napolitano, il voto anticipato è una prassi molto italiana, smarrita ogni nozione di rispetto e confronto civile, sono ottimista ma non ingenuo. Tra poco il Consiglio dei Ministri che dovrebbe affrontare la questione IVA, sotto pressione borsa e spread, banche, imprese, fondo monetario, no alla crisi. Per Bondi il governo è finito, Brunetta frena, voteremo la fiducia, ma intanto il PDL si prepara alla piazza, il 4 ottobre, lo slogan siamo tutti decaduti. Epifani, il PDL ha colpito il paese alle spalle, subito una verifica risolutiva in Parlamento, voto compatto in direzione sulle regole per il congresso. Appalti G8 e grandi eventi, rinviato a giudizio per corruzione, l'ex capo della protezione civile Bertolaso, processo anche per Anemone Balducci. Inchiesta del TG3 sui rifiuti tossici, la denuncia di un ex ufficiale dell'esercito, anch'io contaminato dai veleni interrati a Castel Volturno, intanto aumento record dei tumori. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali. Mali. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Proprio come noi persone non è sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però c'hanno le ali. Beh, resta sempre il top, eh. 800 24 00 24, la zanzara. Ancora qualche minuto con il senatore Maurizio Gasparri, che si trova in Puglia. Per non so quale Cazzalone. Beh, numero uno è sempre certo. Top Gasparri, certo. Bisogna dire che sempre che Cazzalone. Ma come che Cazzalone? No. Assolutamente no. Ma adesso che Cazzalone con quella canzone lo arrestano con nuova legge. Arrestano lui e tutti i produttori, tutti. Ma no, ma era una canzone spiritosamente contro, no, quelli che non so. Ma poi lo dovrà spiegare in questura, quando l'avranno arrestato. Ma lei che ha messo il viva voce adesso? Ha messo il viva voce? No, non ha viva voce. No, ma no, dove no, si voce. Trova? Dove si trova? Mi sono spostato dalla manifestazione. Vabbè, allora, io diciamo, andiamo subito. Lei queste dimissioni le ha firmate come? Le ha scritte di suo pugno oppure no? Ho scritto una lettera di mio pugno, un cartoncino che ho. Cosa ce l'ha scritto? Ce la può leggere? Ce la può leggere? Ho scritto indirizzo, non ce l'ho sotto mano, però glielo dico a memoria. Caro Presidente, considerate le gravi violazioni della Costituzione a cui assistiamo, mi dimetto dalla carica di senatore. Indirizzata a Grasso, ma l'ho consegnata al gruppo parlamentare nostro, perché così abbiamo fatto. Perché siamo su scherzi a parte? E poi ma siamo su scherzi a parte? Le gravi violazioni della Costituzione. Ma che è paperissima costituzionale? Ma che roba è? Guardi, è stato condannato, signor Berlusconi. Qual è la violazione costituzionale? Ma lei, Parenzo, vede, lei dice sciocchezze. Allora, Berlusconi dovrebbe decadere in base a una legge. Che vabbè, adesso non ricominciamo. Ma non ricominciamo, ma quali violazioni costituzionali? Non si può applicare retroattivamente una legge. Oh. Questo è il problema. L'articolo 25 della Costituzione, comma 2, lo dice. Ma avete applicare retroattivamente la legge vabbè. A Berlusconi vuol dire fare una violazione della Costituzione. Vabbè, allora poi ci sarà. Ci si ritira sulla ventina. Definitiva che ancora non c'è, come lei sa, e ne parleremo. Però scusi, Gasparri, lei che cosa come si può risolvere questa situazione? Allora, secondo il PD, che cosa dovrebbe fare? Aspettare fino a quando? Dovrebbe accettare che si invia alla Corte Costituzionale questo, cioè, problema, non si deve votare il 4 ottobre in giunta. Il 4 ottobre non si deve votare in giunta. La giunta e il Senato potrebbero decidere quello che noi avevamo proposto. Chiediamo alla Corte Costituzionale italiana o alle ho capito di chiarire questa di vicenda europea, a chiarire questa vicenda, questa vicenda. Va bene, d'accordo. Non abbiamo chiesto a loro di votare per Berlusconi, ma di votare perché si faccia un quesito agli organi costituzionali. Ma no, ma ho capito perfettamente. Allora anche Napolitano è corresponsabile di questa violazione costituzionale. Napolitano, scusi, dai, che su. È il supremo garante è corresponsabile, non deve sottovalutare che si sta calpestando l'articolo 25 della Costituzione. Vabbè. Senta, dunque, il PD, che è vostro alleato, è corresponsabile. Il PD, che è vostro alleato, oggi cosa dovrebbe fare? Rinunciare al voto del 4, la prima scadenza, rinunciare al voto dovrebbe del 4 ottobre? Condividere la possibilità che la Corte Costituzionale italiana, vabbè, questo l'ho capito, dunque verificano le leggi, non devono dire Berlusconi ha ragione, devono dire ho capito, dunque rinunciare al voto del 4 ottobre, rinunciare al voto. Tanto hanno un'arma di riserva, perché quando arriverà quella sanzione accessoria definitiva, che oggi non lo è, potranno comunque tra 2 o 3 mesi invocare quella eventuale ragione. Ma oggi, scusi, lei ci crede allo scioglimento delle Camere o no? Seriamente, ci crede o no? In Italia si è votato anticipatamente per ragioni molto meno gravi, i precedenti lo dicono. E dunque si vota che a quanto? Al 70% si vota, 80%, 21%. Secondo me comunque non si va oltre febbraio-marzo, perché non vedo che possa durare il quadro. Poi si potrebbe votare anche prima. Poi lei sa che c'è il problema. Cioè, oltre febbraio-marzo, ma tanto la legge elettorale tutti dicono che la vogliono modificare, ma non la vogliono modificare nessuno in realtà. È la costituzionale che deve esprimere. Vabbè, quindi noi abbiamo un vincolo, dobbiamo fare delle correzioni. Fosse per voi non la cambiereste, su, fosse per voi. No, la cambieremmo, perché la Corte Costituzionale sulla famosa soglia, cioè per avere più seggi, sì, ho capito, bisogna raggiungere un certo livello di consenso. Questo è giusto. Senta, una battuta su Ingroia, che è diventato parte civile come avvocato, lo vogliamo fare nel processo? Era in civile, si crede civile, ma resta sempre in civile. Vabbè, allergia. Allergico. Appena sente Ingroia, intanto l'abbiamo messo quando stava in attesa. Dica Ingroia, prima che mi quereli, che era ironica come la canzone di Checco Zalone. Quindi diciamo, in parte, solo in parte civile. Va bene, grazie, a presto. Ciao, ciao. Saluti, Gaspar. Allora, siamo qui, Olindo da Torino. Olindo, signor Olindo. Olindo. Dica. Buonasera, Vicente. Sì, dica. Cruciani, io devo fare i complimenti, perché lei crea una cassa di risonanza con la sua trasmissione, col suo modo di fare la trasmissione. Vabbè, io, a me i complimenti non piacciono. Dunque, no, no, avanti, ma è un complimento in questo senso. Lei ieri sera ha fatto un'intervista a Barilla straordinaria, perché va bene, non mi interessa l'intervista. No, gli ha tirato fuori delle cose che non voleva dire. Ho fatto poco in questo caso. In questo caso ha insistito tanto che l'ha condotto a dire quelle cose, e oggi tutti i telegiornali, tutto il mondo parla di questa cosa. Il mondo, diciamo il mondo, diciamo il mondo, diciamo il mondo, diciamo il mondo. Questo sì, il mondo sì. Avete avuto una grande, va bene, poi andiamo avanti. No, tutto lì è stato. Ma come tutto lì? Ma che ci frega? Perché Marcello Fabio da Bologna, grazie Olindo. Perché Marcello Vino Nuovo mi chiama mentre sono in diretta alla Zanzara? Perché Fabio... Marcello Vino Nuovo mi chiama mentre sono in Fabio diretta? Da Bologna, ma la gente non lo sa chi è Fabio da Bologna. Buonasera. Pronto? Dica. Io ero qua che aspettavo per fare un intervento, ma ho aspettato col telefono, mi è sembrato di parlare al telefono con Gasparri e mi è venuto un mal di stomaco. Che vuole che le dica io? Ma è esattamente quello che vogliamo provocare noi. Cioè, invitando Gasparri, sappiamo che provochiamo mal di stomaco, mal di pancia, a qualcuno, odio, a altri, eccitazione magari. Ma eccitazione non credo. Beh, però c'è qualcuno che si eccita con Gasparri? No, eccita. Ma qualcuno dei suoi sostenitori sicuro? Uno si può eccitare. No, eccita culturalmente, intendo. Allora, che vuole Fabio? No, io volevo fare un intervento a favore della Boldrini, perché... A favore della Boldrini? No, a favore della Boldrini non si può fare. No, a favore della Boldrini non si può fare. No, scherzo, adesso glielo faccio fare dopo la pubblicità. 800 24 00 24, rimanete insieme a noi, non ci mollate, perché noi siamo qui e vi racconteremo cose strepitose, ospiti pazzeschi. Siamo tutti froci! E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Merita una riflessione questo. Oh, questo è uno spot di Dario Fo della Barilla del 1959. Dario Fo che dice adesso, secondo me incredibilmente, che Barilla dovrebbe fare gli spot con la famiglia omosessuale. Ma uno potrà fare il cazzo che vuole, scusami, adesso sì, avrà sbagliato comunicazione, avrà detto una parolina di troppo e lo stanno crocifiggendo Vecchioni, Dario Fo, le associazioni americane, tutte le lobby gay possibili immaginabili. Ma potrà fare la pubblicità come diavolo gli pare, per non usare ancora una volta la parola cazzo? Cioè, potrà farlo sì o no? Cioè, non deve parlare un premio Nobel, perché poi è strano, c'è Dario Fo, cioè fa un appello, una lettera aperta perché dia spazio anche alle altre famiglie, ma c'è un sacco Dire, la pubblicità rappresenta un po' la società e quindi dovrebbe essere rappresentata, cioè negli Stati Uniti è normale, capito? L'Italia è reazionaria per questo, perché ma che da noi... La predica? Eh? Ma fammi sentire Dario Fo, va, c'è 1959. Va. basta, mi ritiro. Questa non la bevo. E questa la mangi? Ah, questa sempre. È Pasta Barilla. Con Pasta Barilla è sempre domenica. Ed ecco i nidi di rondine Barilla. Le famose tagliatelle di Parma. 5 uova in ogni chilogrammo. Noi preferiamo il nido di rondine che è vera pasta all'uovo. Di uova in ogni chilo ben 5 ce n'è. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Per i bimbi. Danzano come zanzare. Queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Senta, scusi, è entrato adesso uno che... Benvenuti a sti fracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui, continui, continui a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo frifri, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione. Non mi mordere il dito. E siamo qui, 800 24 800 24. Eravamo con Fabio da Bologna. Allora, Fabio. Va bene a Boldrini sottolineare l'importanza della comunicazione pubblicitaria. La comunicazione pubblicitaria influenza i comportamenti sociali, influenza in maniera determinante. La Boldrini dovrebbe limitarsi, come fanno tutti, come dovrebbero fare tutti i presidenti della Camera, a dire ogni tanto qualche parolina di circostanza nelle cerimonie ufficiali, fare emendamento 134, emendamento 135, senatore, deputato, coso, stia fermo, stia zitto, eccetera. Per me il presidente della Camera quello deve fare. Certamente non deve parlare di spot pubblicitari, questo non c'è dubbio. Di spot non deve parlare. Dopodiché poi il signor Barilla gli ha fatto un grosso regalo, le ha fatto un grosso regalo, perché l'aveva criticata e l'ha criticata pesantemente, giustamente, dopodiché ha fatto lo scivolone. Vabbè, Fabio, grazie. Lisa d'Arezzo, Lisa Arezzo, veloce, rapidi. Buonasera, rapidi. Buonasera, signor Cruciani. Vada. Allora, a parte che ha ragione sul discorso della Boldrini, perché ha ragione sul fatto che possa aver fatto uno scivolone il signor Barilla, è anche vero che secondo me c'è stato un po' portato, no? Da chi? Da nessuno. Dalle domande che gli vengono fatte. Ma è normale, stesso, ma noi facciamo le domande, che dobbiamo fare? Siamo qui a pettinare le bambole. Sì, va bene, però sull'omosessuale, perché non gli viene chiesto se la stessa spot lo farebbe sugli handicappati o sui gay. L'handicappato perché come mai, perché ha detto quella frase, punto e basta, andiamo. Però secondo me si è sempre un po' a zampettare nel torbido, no? È facile. Ma noi viviamo nel torbido, poi noi ci sciacquiamo nel fango, a noi piace il fango. Ma bravi, però che c'entra la pasta con l'orientamento sessuale di una persona. Senta, ma lei è lesbica? No, io sono eterosessuale, ho un figlio, ma non sarebbe un problema se io fossi lesbica. No, ma bisessuale, però bisessuale un po' sì. No, ma magari, ma sarebbe anche bello forse, perché secondo me le donne hanno quel qualcosa in più. Ha mai avuto rapporti con una donna? No. No, vabbè, ma non c'è niente di strano. Però secondo me ho ancora tutto una strada aperta. Quanti anni ha lei, scusi? 36. Ma a 36 siamo ancora deve provare tutto nella vita a 36 anni. Bravo, però mi scusi, ma provi con una donna, provi con una signora Lisa, provi con una donna. Ma io ci proverò magari, ma se uno sta rimesta ai maccheroni, che deve fare? Slinguarsi con un altro uomo, un'altra donna per far vedere l'orientamento sessuale? Ma chi ha detto questo? La pubblicità del maccherone è: ci sediamo a tavola, mangiamo, chi se ne frega cosa fai di notte o nel letto con un'altra persona. No, ma no? Certo, ma non c'è dubbio. Ma negli Stati Uniti va bene, grazie. Dove andiamo? Giuseppe da Piacenza, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Buonasera. È facile, però, insomma, che Gasparri fosse un cretino lo sapevamo, ma stasera secondo me si è superato. Che ha fatto? Te l'ho detto che c'è una parte consistente di persone che non lo sopporta, che lo odia, appena sente la voce di Gasparri. Ma come si fa a odiare Gasparri? Una persona così è tenero, è Gasparri. No, ma sarò più circostanziato, se volete. Sarò più preciso. Cioè, questa storia che ha detto che la retromarcia di Barilla è penosa. Ma quello è un industriale, quello c'ha 12.000 dipendenti da difendere, non c'ha mica il culo sulla poltrona e lo stipendio pagato dai contribuenti. è chiaro che torna indietro. La presenza in America della Barilla è particolare nella pasta, è importante. È chiaro che torna indietro, lo fa per difendere l'azienda, i suoi dipendenti. Sì, ho capito, quindi, però nell'ottica di Gasparri dice io mi aspettavo che uno difendesse... Ma non è un politico, almeno fino ad oggi, Barilla non fa ideologia, quello deve... a fine mese deve pagare più di 12.000 stipendi. Gasparri, prima di parlare, io capisco che insomma che sta lì perché il suo imprenditore politico gli ha permesso di star lì, se no farebbe l'autista Gasparri. Gasparri esisteva anche prima di Berlusconi, bisogna dirlo. Sì, faceva l'autista, infatti. No, ma non è vero, era stato dirigente politico del Fronte. Vabbè, prima ancora sì, alle origini sì, poi... va bene, ciao, ciao Giuseppe, ciao, ciao, ciao. Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica. Beh, con noi, caro Parenzo, uno dei simboli per definizione del mondo omosessuale, un nostro amico Alessandro Cecchi Paone. Eccoci. Ciao a tutti, buonasera. Dove stai? Col tuo fidanzato, forse? No, sto lavorando sul mio programma di scienza adesso. Sempre giovani di comunque li scegli, non c'è dubbio. Sì, beh, voglio dire, tu scegli, preferisci le persone anziane, per carità. Beh, ogni tanto, guarda Alessandro, ti posso assicurare che il genere vintage, ultimamente mi stimola parecchio il genere vintage. Cioè la pelle, sai, la pelle un po' più, come dire, un po' mamma più mia, in carta pecorita, la pelle un po' più Madame squamata. Tussaud, gli piace un po' Madame Tussaud, capito? Beh, guarda, ti assicuro che al Museo Egizio le trova. No, che c'è il Museo Egizio, no, ma che è bellissimo, beh, il Museo Egizio. No. Suggerire Harold & Maud. Cioè, no, scusami, adesso non mi dire che ma non sei mai... Ma che spread hanno invece i tuoi fidanzati in genere? Che distanza hanno da te? Qualche differenza di età c'è? Ma guarda, diciamo che io cresco, quindi vuol dire lo spread aumenta per colpa mia. Diciamo che il meglio è tra i 20 e i 30. Ah, ecco, quindi... Ah, poi sei proprio così, cioè una ventina di anni di differenza, 20-30 anni di differenza. Possono essere 20, 25, 15, però il ma concetto tu lo fai... del meglio... diciamo dell'equilibrio psicofisico è tra 20 e 30, anche perché io ho questa grande scena divulgativa, quindi mi piace anche occuparmi, se vogliono, della loro crescita professionale. A voi vi pare normale, tu ti occupi della loro crescita professionale, un attimo, bello, a voi vi pare normale che uno mi telefoni? Io si vorrei sapere chi è durante la zanzara, uno mi chiama, vedi, vorrei sapere chi è. Pronto? Adesso in diretta, pronto? Chi è? Pronto? Chi è? Aspetta, mettili la voce, scusa, aspetta, sono Cruciani, chi è? No, è Cruciani che gli squilla il telefono durante, cioè, mi chiamano durante la zanzara, una cosa pazzesca, impazzisco. Ma cioè, sarà una signora attempata che voleva invitarti a cena dopo. No, ma lui era un numero sconosciuto. A me mi ha chiamato prima il signor Vino Nuovo della redazione di Radio Belva e non capisco cosa. Vabbè, comunque, tu li preferisci giovani? Vabbè, d'accordo, questo lo posso capire, Alessandro, per carità. Voglio dire, mica è una cosa strana. No, non è strano. Scusa, il tuo fidanzato attuale quanti anni ha, per chiarire? Ne ha 24. E tu ne hai 40? No, 50. No, 50. Beh, ben portato. Beh, siamo sui 26 anni di differenza, siamo al top, 26 anni di differenza. 26 anni è buono, 26 anni non ma è io male. Sono molto giovane di spirito, Però questo è vero, però bisogna dire una cosa. Io lo so perché uno preferisce, diciamo, le persone più giovani, in generale, che sia uomo, che sia donna, perché uno dice, beh, almeno c'è una sorta di vigoria fisica, per dirla così, no? Anche. Per dirle ma non con solo fisica, energetica, di prospettiva, appunto, sul futuro, di progettualità. Rischiamo noi, io devo dirti che non corro questo rischio, ma c'è il rischio, no, di sedersi un po', di diventare abitudinari, e una persona giovane, donna o uomo che sia, ti viene su e poi ti tiene anche, e poi sessualmente, dire... e poi sessualmente. Ma sai che spesso però tu mi insegni, visto le tue preferenze invece per le persone attempate, che l'esperienza ha il suo peso nella vigoria amministrata. Però nel caso degli uomini è diverso. Ve la giocate, vedo. Nel caso degli uomini è diverso. Comunque, vabbè. Senti, Alessandro, ho fatto il punto sulla situazione. Sulla vostra sessualità. Sereno e felice, quindi anche più tranquillo. Ma stavolta che cos'è? Brasiliano, portoghese, olandese, finlandese? Brasiliano. brasiliana adottata in Italia. Ma cosa pazzesca, sempre quindi, comunque italiano di origine brasiliana. Sempre un po' meticcio comunque, meticcio. Beh, d'altra parte anche la mia moglie era come moglie, ma come amica è spagnola, la mia prima fidanzata era persiana, quindi come vedi sono uno globalizzato anche nei sentimenti. Senti, Barilla, diamo subito un giudizio. Barilla, secondo te tra Barilla e un che ne so, e un tonaca vaticana, chi è peggio? Direi che è proprio Barilla. Tu sai quante volte tu sei peggio del Vaticano, stai dicendo? Assolutamente peggio del Vaticano, ti dico rapidamente perché. Io per molti anni ho difeso le ragioni dei diritti dei civili e della laicità, perché indubbiamente il fatto che ci abbiamo il Vaticano qui spiega perché non abbiamo i matrimoni gay, eccetera. Sì. Ma da un laico giovane che ha un'enorme azienda multinazionale che conosce il mondo, che ha regolarizzato tutto, sentir dire quelle parole è molto più grave. Molto più grave, anzi lui doveva essere, come tutto il mondo è successo, cioè il Papa è normale, dice lei. Papa è normale, ma invece è più normale questo Papa con cui secondo me si ragiona benissimo, ma comunque più di uno non si può aspettare, se no che vai a fare il Papa cattolico. Ma da Barilla, che vende i suoi prodotti in tutti i paesi dove ci sono, tranne l'Italia, la Grecia e la Russia, matrimoni omosessuali, adozioni, leggi contro l'omofobia, ma è sconvolgente. Vuol ma dire tu che speri, speri che la dirigente italiana che è arretrata. Ma tu speri che ci sia un sacco, che perda un sacco di soldi? No, lo spero no, perché non auguro mai del male a nessuno, però gli segnalo, se non gliel'hanno detto in azienda i suoi consiglieri. Sicuramente gliel'hanno detto. Che i gay italiani non sono particolarmente agguerriti, perché no, altrimenti avremmo già no. i nostri diritti come tutti gli altri. Ma nel mondo americani, in Scandinavia, sì, in Olanda, nel mondo sta succedendo un casino. Ma sì, non solo gli boicottano i prodotti, ma dicono e ottengono e chiedono e ottengono a amici, parenti, colleghi, simpatizzanti di ogni orientamento sessuale di fare lo stesso. Quindi rischiano un 20% di crollo, non solo ma della tu pasta, non lo fai però. Rendine. Tu continuerai a mangiare la pasta Barilla, Alessandro Cecchi? Guarda, io ho una fortuna in questo frangente, sono di origini abruzzesi, quindi sono un devoto della De Cecco. Vabbè, adesso non facciamo pubblicità, però zitta. Non chiedo che la De Cecco dice che la sua pasta è gay, ma le chiedo di non dire niente, ecco. Beh, comunque devo dire la verità, oggi mi hanno mandato delle mail delle aziende di cui non posso fare il nome, delle aziende di pasta, che mi hanno detto: perché non fai il testimonial della pasta al finocchio che vogliamo fare, che vogliamo lanciare nei prossimi mesi, pasta al finocchio con un colore della scatola lilla, con un colore lilla. Scusa, ma anche questa è omofoba, voglio dire, spiega a questi signori che la pasta al finocchio, va bene, perché non si può dire perché non si può dire finocchio. Dai, ma perché vuol dire giocare su una roba. Io trovo molto più divertente un'altra pasta di cui io spero di fare il testimonial a questo punto, napoletana, la quale ha messo in giro il napoletano stretto, ve lo dico in italiano. Ah sì, l'ho letto. Fatelo sì. con chi volete, ma fatelo duro, intesa come pasta al dente. Beh, fatelo duro potrebbe essere anche, come dire, in qualche modo equivocata la cosa. No, dai, qui oggi non si può equivocare. No. Senti una cosa, secondo te ci sono napoletano, scusa, fascitelo toast, così non ci sono rischi. Hai conosciuto qualche dipendente dalla Barilla nei tuoi excursus sessuali? No, ma sono, come puoi immaginare, sommerso non solo da inviti a radio e televisioni, anche se numero uno sempre voi, perché da anni possiamo parlarne, ma da mail, da addirittura dipendenti dalla Barilla ti scrivono. Perché sì, cosa? Sì, perché stanno cercando di organizzare, secondo me è una cosa molto bella, ricorderete quel bel film che si chiamava, non mi ricordo come, non mi viene in mente, In and Out, e vogliono fare un grande coming out di massa, cercando di convincere i loro colleghi e colleghe etero ad unirsi facendo finta di essere gay anche loro. Cioè mi stai dicendo che dipendenti della Barilla potrebbero fare una sorta di coming out di massa, cioè tutti i froci della Barilla si riuniscono, non so dove, per ma stiamo fare esagerando. Un coming adesso out. Salterà fuori che il pan di stelle lo mangiano solo gli omosessuali. Beh, quello però sarebbe straordinario, Alessandro. È un coming out di massa. Mi sembra eccessivo. Bellissimo. Non vi ricordate la scena finale di In and Out, dove tutti gli studenti e i professori, per salvare il professore che doveva essere cacciato Kevin perché si è dichiarato gay, si alzano e dicono: siamo tutti gay. E a quel punto nessuno può fare più nulla. Cioè, tu è inviti i dipendenti ad alzarsi a un certo punto dal loro posto di lavoro a un'ora precisa durante il giorno a dire: sono frocio, eccomi qui. Siamo tutti gay. Beh, cosa spettacolare sarebbe, dai. Bello, scusa, no? ma tu hai avuto qualche storia con dei pastai? No, questo mi manca ancora. Qualcuno dice che addirittura Guido Barilla, ripeto, io ho grandissimo rispetto, lo ripeto per l'ennesima volta, sono contrario al boicottaggio, certo, contrario totalmente al boicottaggio. Credo che non abbia, che non sia stato nemmeno sgradevole il signor Guido Barilla. Certo, ha un po' detto, ha detto delle frasette un po' così, io non, basta che non disturbano la storia della pasta, che se non, non, se non siete d'accordo con la nostra comunicazione comprate, non ve la mangiate, ecco, però insomma, l'unica frase è un po', diciamo, sopra lì, che è stata quella della sul se non siete d'accordo, anzi no, se io rispetto però non disturbate, che è la solita cosa che si dice un po'. Ma vabbè, quella è la frase tipicamente omofoba. Un buono psicologo, non che ne abbia bisogno Barilla, secondo me lì può scavare per capire come gli è venuto in mente. Che, cioè? E che cosa, cosa potrebbe tirare fuori? Di solito gli omofobi con qualche problema irrisolto, io ho una mia teoria. Diciamoci la verità, Barilla, soprattutto quando era giovane, quello che ha fatto il macello, era molto bello. Lui, tra l'altro, è stato con la mia fidanzata persiana a suo tempo. E cioè, era stato con una tua fidanzata? La cioè, avete tu e Guido Barilla avete avuto una donna in comune? Assolutamente sì. Cioè, vi siete trombati uno insieme? No, insieme no, in momenti separati. No, io non faccio queste cose. Prima lui e poi sono arrivato io, ci sono fidanzato per tre tu anni. Tu dopo. E lei mi raccontava che aveva avuto questa storia con Guido Barilla, che all'epoca era bellissimo, questi capelli biondi, lisci. Il mio sospetto è che lui sia stato più volte importunato da gay attratti, affascinati da lui, e che la cosa lo abbia molto infastidito, e che maturando, per colpa tua, poi è esplosa in questa ira funesta. Cioè, scusate, ma questa tua ex fidanzata ti ha raccontato che lui è stato più volte importunato da gay? No, la ex fidanzata mi ha detto che era stata con lui e che all'epoca era il golden boy, perché era già un Barilla e perché era molto bello. Lei anche era molto bella, mi dice, sai, prima di te ho avuto Barilla, dico, va bene, viva. E chi se ne frega? Però per dire che è sicuramente etero, però deve aver avuto, secondo me, molte avanze invece da omosessuali che devono averlo turbato. Vabbè, comunque qui abbiamo... Scusa, se no perché uno deve dire purché non diano fastidio? Vuol dire che gliel'hanno dato fastidio. Molti dicono addirittura... No, ma è come dire, insomma, che è un aspetto che attiene alla vita privata, comunque, no? Comunque... parola che non devono dare fastidio, vuol dire che gliel'hanno dato fastidio. Ma tu dici che è un gay represso, no? No, ho testimoniato che è stato con la mia fidanzata, solo io poi ho cambiato idea, mica lui. Guarda, mi sta scrivendo Oliviero Toscani e mi dice, ma come siete noiosi con questi gay? Avete forse un problema personale? Signor Toscani, sei stato il primo, signor Toscani. Però bisogna dire qui, signor Toscani, signor Toscani è una brava persona, perché lui invece ha inventato una comunicazione per il signor Benetton che era volutamente progressista, è stato il primo a dire non comprerò più la pasta Barilla. Ma no, perché lui l'ha detto anche dal punto di vista della comunicazione. Lui dice, gli spot sono avanguardia, sono ti vendono un'idea di prodotto, ciao, di modernità, froci che si baciano. Dai. Dio mio, dai. Che noia mortale! Una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende senti quello che ogni tanto parla di terremoti, di Maya e di altre cose. Cosa pensa di noi il signor Red Ronnie? Va dai matti. Di fronte, lo dico con grandissima modestia, di fronte a uno scoop di portata mondiale come quello realizzato anche involontariamente dai due cialtroni, da questa piccola azienda di provincia, e di fronte a questo scoop mondiale di cui parla tutto il mondo, oggi mi ha chiamato addirittura i signori Al Jazeera per farmi un'intervista. Vabbè, ma a parte questo, di fronte a questo reagisce in questo modo. All'edicola di Fiorello c'era anche il signor Red Ronnie. Non si può piacere a tutti. Che la notte... Dove l'ha dette queste parole, tu lo sai? L'ha detta la zanzara. Ma guarda te. Ma di fatto ieri ho fatto un tweet dicendo andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. Gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. Quindi bisogna vivere il terremoto, poi non fai, fanno delle ironie su tutto. Zara punge, scappa, mai nessuno che la chiappa. e fa, creano di avere lo scoop, perché credono che nella vita si è famosi se sputtani qualcuno, perché i giorni dopo i giornali ne parlano, tutti ne parlano, e quindi basta mettersi il nome di uno famoso in bocca e fare in modo che si sputtani, e tu credi di avere notorietà, fama e soldi, ma non sanno che esiste una giustizia che va ben oltre alle stronzate che leggi sui giornali, con cui ci si pulisce il sedere e il giorno dopo non te ne ricordi più. Caro Red, caro Red, io non so con cosa ti pulisci il culo. No, io non so con cosa ti pulisci il culo. Se con i giornali o con la carta igienica. O con la carta igienica. Non vogliamo neanche sapere. Probabilmente io me ne fotto dei giornali come te ne fotti tu dei giornali. Non ho questa grandissima considerazione. Infatti faccio la radio. Ma come ti permetti di dire che le cose che appaiono sui giornali, che sono riprese da questa ditta, sono cose per cui bisogna pulirsi il culo? Posso essere cercata, Sorrogni, E vorrei sapere con che cosa si pulisce il culo il signor Red Ronnie. Ma caro Parenzo, come i giornali della destra hanno affrontato la vicenda? Piccola rassegna stampa per la sobrietà dei giornali del centro-destra. Il quotidiano Libero, diretto dal signor Maurizio Belpietro, titola con un carro armato rosa con sopra scritto Arci Gay, che punta il cannone verso il Mulino Bianco, e il titolo è I gay all'assalto del Mulino Bianco. Signor Belpietro, amico mio, dai, dai. E non è tutto, perché arriva il giornale magistralmente diretto dal signor Sallusti, che spara in prima pagina un articolo di Marcello Veneziani, così titolato: la dittatura della minoranza, virgolette, spot contro coppie etero, la lobby gay contro Mr. Barilla, e viene subito attaccato il signor Barilla da gay e sinistra. Salute. Segreteria telefonica. A tutti i politici, sentite la poesia dei baresi. Baffa mocca che dai chiavca cura a cesta delle mamme vostre, chi de buchinara cura rotta scassat, mamma ta sorda tanco da figli da troi. Capè. A Cruciano, l'anima degli mortacci, vostra sede terribili, terribili, oh! E quell'altro... Siate Parenzo, state sempre a parlare di sti cazzo di froci, ma che cazzo ce ne frega a noi? Ma parliamo di patacca, ci stanno certe sventole quanto sono belle, stiamo a parlare dell'uomo, io, ma ti rendi conto di che stiamo a parlare? Oh! Ma vada a fanculo l'Italia con il governo e tutta Radio 24 e tutti quanti, me ne vado a dire in Africa, a fanculo, parto domani, stronzi! C'è chi è solidale con Barilla? Chi è solidale con Berlusconi? Chi è solidale con Enrico Letta? Io sono solidale con il mio cazzo! Ah nonno! Nonno! Ah nonno! Dai che c'ho la linea, diglielo! Nonno! Diglielo! Dai, tieni! Ali burracci vostri! Ciao Cruciani! Sono senegalese, mi chiamo Eraj. Ti voglio dire una cosa. Se ti permetti ancora di parlare male della Kang e della Boldrini, ti giuro che ti vengo lì a trovare a Radio 24 per tagliarti i coglioni. C'è la forbice a posto. E poi, che cazzo te ne frega dei 38 fratelli della Kang? Sei geloso? Visto che tu sei froscio, non riesci neanche a farne uno. A Cruciani, per me da piccolo vi avevi il sacco de botte. Ciao. Io sono d'accordo con Barilla. Capito, Coco Barilla, la casa brilla, comunque un po' di coerenza, almeno di smettessere di fare i rigatoni, perché finché fai i rigatoni per dare ragione ai ricchioni. Parenzo, vattala piante al culo a te e tutti quelli come te, chi ti mette le scarpe la mattina che tocca sempre a te? Procio! Cruciani, non hai mandato in onda il mio intervento di qualche giorno fa su Brosio? Brosio coglione, Brosio coglione, Brosio coglione, Brosio coglione! Brosio è un coglione! Diciamo, io non ho dei dubbi che nella trasmissione che andrà in onda su questa radio diretta del signor Minoli possano mai, minimamente arrivare riflessioni così auguste come abbiamo sentito poco fa, né nella trasmissione ad esempio del signor Madron o del signor, come si chiama? Il signor, no, Madron non, no, mai fatto, il signor Carruba, il signor Salvatore Carruba, non arrivano telefonate di questo tipo. Come mai, punto di domanda, come mai? Non siete seri per niente. Questa è la segreteria telefonica della Zanzara, però ragazzi, basta con questa roba, veramente, basta, voltiamo pagina. Noi vogliamo delazioni, racconti, anche sesso volendo, cioè raccontateci le vostre esperienze. Però insomma, non è che possiamo continuare così, perché altrimenti non possiamo mandare in onda più nulla, perché già siamo sul bordo, siamo sul limite, no? Siamo sul limite della denuncia penale e civile, nonché di altri guai di natura minore ma sempre importante, tra cui il nostro posto di lavoro. Per cui dateci una mano su, noi la segreteria la vogliamo mantenere, però se continuiamo così, 02 46 52, ripeto, delazioni, sputtanamenti, quello che vi pare, però andiamo. 02 46, com'è qua, 02 46 52 40 10, 02 46 52 40 10. Vincenzo da Salerno, su. Vincenzo, vai. Pronto? Sì. Dunque, mi sono sentito un po' tutte le chiamate in segreteria, quindi adesso insomma mi scappa anche un po' da ridere. Beh, fanno ridere, sì, fanno no, ridere. No, ma della condizione in cui insomma l'Italia è ridotta. Certo. No, francamente, voglio prendere spunto dalla dichiarazione di Barilla, ma non tanto per entrare nel merito di ciò che ha detto, ma io sono talmente tollerante che chiunque può dire ciò che vuole, però mi meraviglio che queste dichiarazioni vengano da un imprenditore. Vabbè, questo ci siamo meravigliati tutti, Vincenzo, non è che ce la viene a raccontare. Arriva lei, amico mio, tre giorni dopo che scoppia la polizia, mi meraviglio che ce la viene un imprenditore. Ma pensa un po' a te, mi fa dire tre giorni che esploso il casino, questo sono... pronto. Sì. Se mi fate concludere il discorso. Tanto Letta, aspetti, mi fa dare una notizia ogni tanto. Scusi un attimo, mi fa dare una notizia intanto. Allora, Letta uscito dal colloquio con Napolitano, dice prendere o lasciare, certo, alle Camere lunedì o martedì. Ottimo. Cioè dire cosa chiede. Dice che vuole un voto di fiducia, come a poker, Camere. Voglio vedere il bluff, come si vuole dice. Vedere le carte. Come a bluff, poker, vuole vedere le carte. Le carte di come Berlusconi. A poker. Vabbè, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, un po' chi se ne frega. No, chi se ne frega, no, perché è importante il governo, eccetera, però insomma... Insomma, rispetto a questo... Allora, i froci, ecco, allora, a cascare Vincenzo, il governo, dunque... torniamo al caso. Pronto? Sì, allora? No, dunque, allora, quindi, penso che ormai siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che, insomma, da un imprenditore, infatti, poi fa un marcio indietro, ma mi sembra anche normalissimo, visto che deve vendere un prodotto nel mondo. Ma il fatto drammatico è che... di fronte a queste frasi poi interviene la politica. E ma chi interviene? Certo che interviene la politica. Beh, è normale, capito, che intervenga la politica. Ogni tanto farebbe meglio stare zitto e tutte le cazzate che dicono poi intervengono per accumulare ancora di più cazzate rispetto a quelle che fanno e quello che dicono, e dimostrano la loro pochezza in tutto, va bene, tutto ciò. Vincenzo, grazie. Giovanni da Milano, buonasera. Buonasera, salve, dica, Cruciani, salve, dica. Parenzo, volevo fare un piccolo inciso prima dell'intervento. Parenzo, non so perché si vergogna di nascondere chi è sto vino nuovo. Non c'è da vergognarsi, del buon vino va bene, basta prenderlo con moderazione, va bene. Scusa parentesi. No, ma vino nuovo è una persona che collabora con noi, vabbè, insomma. Vabbè, dai, forza, avanti. Vabbè, no, più che altro volevo esprimere il mio rammarico, la mia tristezza nell'aver compreso effettivamente perché l'Italia va male, perché no, Giovanni, però si avvicini al microfono al telefono. Senti? Sì, dica, avanti. Perché sono così lontani dalla vita reale, dai problemi reali. Tutti quelli che avete invitato, uno si lamenta, prende sotto gamba il fatto che dedotte le spese di affitto, per mangiare, dicendo, pranzo, eccetera, gli rimangono solamente 3-4 mila euro in tasca, che francamente non sono più niente. Quell'altro ha almeno del 98, del 2% di presenze, sì, e non si rende conto che un cittadino qualunque, se è già fortunato avere il lavoro, se sta a casa più di 8 giorni rischia anche l'accensamento. Vabbè, Giovanni, andiamo al sodo, su. Dunque? Sì, dimmi. Dica. Dunque? No, ma non è che dica, lo no, dico io, dica, a me lo dice, cioè, ma di che stiamo parlando? Il problema dell'Italia è il problema che non, il Parlamento è lontano dai problemi, vabbè, reali, perché le persone... È arrivata la banalità delle 8 e 10, su. è arrivata la banalità delle 8:10. Benissimo, è arrivata la banalità delle 8:10, il Parlamento è lontano dalla vita degli italiani. È così. Va bene. A sentire gli interventi di quelli che vengono da voi è così. Credo che ci sia stata una supercazzola di Lapo Elkan, eh? Le solite supercazzole di Lapo. Gliel'hanno fatta o...? No, la supercazzola è un modo di parlare da parte di Lapo in cui non si capisce un cazzo. Ah, diciamo, certo, ma fosse Antenne. Che non si capisce una mazza, sentiamo. Piuttosto è lo stile interiore, è secondo me il punto più importante, perché se tu non hai la parte forte dell'interiore molto difficilmente riesci anche ad avere un esteriore di valore, bisogna lavorare su entrambi. Beh sì, questo è vero, lo stile interiore, bisogna lavorare molto sullo stile interiore, lo stile interiore, lo stile interiore, non è sbagliato. Ancora, ancora. Il punto cardine è che lo stile fondamentalmente è importante, prima di tutto quello che c'è dentro. Beh, è anche originale se vogliamo, no? Lo stile importante è quello che c'è dentro. Lo stile importante, stava parlando di stile, no? Di fashion. Sì, probabilmente, sì. Probabilmente ha ragione, però se non stai a analizzare ogni singola parolina di signor Lapo Elkan. Vado a stare svegli anche per bere, ma che fastidio, che fatica sopportare di notte le zanzare. Oh, è rispuntato. È tutto finito, sì, lo sappiamo. È rispuntato il signor De Gregorio ieri da... Che palle, però che noia. De Gregorio. Queste interviste a De Gregorio. Un grande racconto televisivo. Sì, però, ma ieri da Santoro. Una noia mortale, signor De Gregorio. Signor De Gregorio che racconta che Berlusconi adesso è diventato un impresentabile. Anche noi l'abbiamo avuto De Gregorio. Non sai che dire, perché stava con Berlusconi, stava con Di Pietro. Ne ha combinati tutti i colori. Adesso dice che a un certo punto di notte gli è apparso il padre in sogno e gli ha detto: devi sputtanare Berlusconi, confessa tu. Tutte liberi da tutta, vabbè, ci dobbiamo credere, ci crediamo. Berlusconi il primo dell'impresentabile. Io sarei stato sicuramente eletto in posizione blindata e avendo fatto il presidente della delegazione NATO, il presidente della commissione difesa, sarei stato candidabile anche a qualche posizione, nonostante il clamore. In fondo non sono usciti tutti gli impresentabili dal Parlamento, no, c'è qualche impresentabile ancora assiso nei ruoli chiave. E come fanno a discutere di impresentabili se il primo degli impresentabili è il capo del partito? Ho commesso un errore a innamorarmi di Berlusconi, ma uno, ma, vabbè, lasciamo perdere. Questo incredibile circo al quale ho partecipato, sbagliando, commettendo reati, commettendo l'errore di innamorarmi verso un uomo nei confronti del quale non nutro mica ansia di vendetta, rivalsa, rabbia, non c'ho nulla di questo. Però oggi ho la soddisfazione di essermi ripulito. Per il suo bene se lo porterebbe in carcere. Me lo sono... Perché se lo sta tirando piano piano. Noi siamo qui, 800 24 00 24, con Ernesto da Roma. Eccoci qua, anzi no, prima c'era Mario Reggio Calabria, poi Ernesto da Roma. Mario. Salve, sono incazzato come una bestia, sto spruzzando fiamme dalla bocca e dal culo per quanto sono incazzato. State facendo tipo parlare di questi froci, io sono un dottore di pronto soccorso, per quanto ne parlate state stravolgendo le leggi di Darwin, ma anche Darwin questi froci non li saprebbe classificare e voi li considerate normale. Volete pure tipo, quasi che la pubblicità della Barilla ci sia con i village people con i pantaloni neri e il buco di fuori del culo, cioè questa è gente malata. Lei sarebbe malata, un medico, malata. Scusi? Lei è un medico? Sarebbe un medico lei? No, un dottore, è gente malata. Ma non mi è vero. Può dire dove esercita che cerco di non passarci mai? Mi sto frustando per stemperare la mia rabbia. Ma mi può dire in quale zona esercita, dottore, che cerco di non esserci Valenza, mai? Se ci siamo già conosciuti ma Dio me ne scappa liberi. Quando sei venuto al comune mi hai chiesto pure una sigaretta. Vabbè, adesso non è che uno si può ricordare di tutte le persone a cui chiede una sigaretta. A Reggio Calabria è vero che sono venuto, può essere che abbia, che ogni tanto mi capitava quando favo di chiedere qualche sigaretta, non penso che questo mi conferma che io dove sta lei non ci voglio. Quindi scusi, se mi dice Mario, dove ma esercita... lei dove fa il medico? Scusi, che? Ma che medico? In provincia di Reggio Calabria. Ma che medico? Dove? Dove? Che la facciamo cacciare dall'ordine dei medici? Dove? No. No, perché si sa, è risaputo che è gente malata, la politica corretta che voi fate è solo per tipo ipocrisia, è gente malata. Vabbè. Ma tanto sento quello sporcaccione di 60 anni che va con quello di 20. Ma perché qual è la parte che non aveva 60, quello c'era 50 e va con uno di 25. Signor Cecchipo, quello è uno sporcaccione. Ma perché è uno sporcaccione? Ma non è vero, perché se fosse un uomo... No, è gente, ma è gente di voce, l'uomo e la donna, capito? Fine. L'uomo vero è quello alla Giancarlo Giannini quando faceva il film con Mariangela Melato, bello, ingrifato, quello è l'uomo, no? Queste fricconate qua. Ma lei sta recitando, su, lei non è vero, è una marionetta, non è vero, lei è un fumetto, non può essere vero. No, nessun fumetto, quello è l'uomo vero, caliente, del sud, quello è. No, queste cose, quello là, tipo, sto frosciume qua. Che diventa, se voi ne parlate sempre, diventa peggio della viaria, peggio, si diffonde, tutti diventiamo froci più ne parlate. Vabbè, lei è sicuro di essere un medico, sì. È sicuro di essere Ernesto, di essere Mario da Reggio Calabria, è sicuro, sì. Sì, signore. Sì, signore. Ma quando mai? Ma lei sta recitando una parte, si capisce benissimo che sta... Ci vuole coglionare, vabbè. Dai, ci vuole coglionare. Non ci è riuscito. Cioè, lei è talmente malato di mente che non credo che... Cioè, non spero, almeno. Dai, su. Ernesto da Roma. Buonasera Crociani, però io non sono medico, però che palpebre con questi froci. Prima che Copaone, poi Barilla, che state massacrando le cronache. Voi siete Radio Gay, non siete Radio 24. Questo è un buon titolo. Questo è Radio Gay. Questo è un buon titolo, Radio Gay. Questo è Radio Gay, me lo confermi Crociani? Questo è Radio Gay, è un buon titolo. Comunque, come si chiama quello? Checco Pavone, com'è? Checco Pavone, pure Checco Pavone mi sono dovuto sentire. Niente di meno, Checco Pavone, che io lo odio. E poi io volevo parlare di una cosa, soprattutto con quel comunista di Melma di Parenzo. Di Melma, che sì. Per quanto riguarda Berlusconi, più lo tiranneggiano, lo perseguitano con le toghe rosse, più lo fanno decadere con applicazione di una cacchio di legge, certo. E più il consenso del centrodestra si allunga e si ingrossa come un turgido, ma che riflessione, bella riflessione profonda. Saranno costretti per 20 anni a correre dietro a Berlusconi. Ma che bella riflessione profonda che ho ha fatto. Tutto, caro Parenzo. Ma c'è una cosa da dire, ma bella riflessione profonda devi che morire. Ha fatto. Per 20 anni ancora di Melma di Berlusconi devi mangiare. Ma che bella riflessione. Ma com'è acuto questo signore che chiama? Di voti al centrodestra. Ma... Perché il berlusconismo non muore. Non può muore. Morire Berlusconi, ma il berlusconismo sopravvive. Oramai è una dottrina sociale. Votata all'effettivismo, ai risultati, in contrasto ai fannulloni e papponi di Stato del centro-sinistra. Ma... Becca di questo e portala a casa. Ha fatto comunista di Melma che non sei altro. Vai a mangiare adesso se hai voglia. Secondo me ti è passata pure la voglia di cenare. Ma non anzi, mi è venuto appetito a sentire le sue stupidaggini. Comunista di Melma. Ma perché di Melma? Scusi, di merda al massimo. Perché voglio essere radiofonico. Voglio hai capito radiofonico. O no? Hai capito. Perché no. Sennò al posto della L senta, ma quanti, da quanti giorni si stava preparando questa stronzata? Da questa una elaborazione? Vita. Da una ecco. Vita. Da quando sei nato tu, guarda. E quindi da loro che sono 37 anni che ti prepari a dire questa stupidaggine. Da 37 anni che ho hai comuni. Avuto il tuo momento di gloria, amico. Ciao, mio Ernesto, torna in cantina. Andiamo a Ruggero, provincia di Bergamo. Buonasera. Ma non parliamo di questa cosa di Zannonato, degli stabilimenti lì che riaprono. Volevo dire che è tutto connesso. Una notizia straordinaria. Una grande rete. Riaprono gli stabilimenti della Riva lunedì. Ma chi se ne frega? Zannonato, il ministro dello sviluppo economico, è riuscito a sbloccare. Ma non è Forum Economia. Ma 1400 lavoratori torneranno al posto di lavoro. E quando mai? È Parenzo. E quando mai? Parenzo. Quando mai Parenzo non dice stupidaggine? Mi ci chiede, hai ragione. Lunedì 1400 ma me ne sbatto le palle, tornano ma al lavoro a dire grazie a Forum al Economia decreto, che oggi ci ha dato pure le linee con 2-3 minuti a quello che ha fatto Zannonato. 1400 lavoratori torneranno al lavoro, di questo dobbiamo parlare via. E la puntata sarà dedicata lunedì interamente a loro. Bene. Con le loro storie, le loro passioni, le loro famiglie. Ai microfoni della Zanzara parleranno loro. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Ruggero, provincia di Bergamo, vuoi annoiare centinaia di migliaia di persone che sono all'ascolto? Ruggero, avanti. Buonasera, mi sentite? Sì, dica. Allora, volevo spiegarvi innanzitutto la legge dell'agnello al contrario, cioè, che sarebbe che quando cala la panza c'è l'uccello, ovviamente. Ah, e poi volevo dirvi che è tutto connesso e voi della rete non sapete un cazzo, che è tutta una rete bellissima E voi non siete connessi, evitate la gente che non è connessa, come quel cretino di Gasparri, come quando parlate, fate parlare Gianni Letta che si sente Gesù Cristo. E c'aveva ragione la Lombardi dicendo che quelli sembrava di stare a Ballarò. E invece, visto che è tutto connesso, voi non sapete un cazzo, volevo dirvi questo. Ma non si è capito niente di quello che lei dice, lo sa, cioè, non si è capito nulla. Come non si è capito niente? Non c'ho auricolare, non c'ho l'audio acceso, non c'ho la voce. Ma non si è capito? Che cosa vuole dire con questa cosa qua? Niente, volevo togliere un po' l'attenzione dalle cagate su Barilla, volevo dirvi che è tutto connesso, che Gianni Letta come Enrico Letta non sono meglio di nessun altro a cui vogliono fare la lezioncina. Ma lei non sa che dire, questo è il punto, che lei non sa che dire, perché sta dicendo delle cose sconnesse, totalmente sconnesse. Sì, volevo solo portare l'attenzione da un'altra parte, so benissimo. Ma quale parte? Non si capisce nemmeno quale parte, l'attenzione su quale parte. Comunque siete fortissimi, soprattutto Parenzo quando fa Grillo mi fa proprio pisciare, è proprio il massimo. Adesso fra poco io lo faccio, è Sabrina da Como, Sabrina. È un po' sparito Grillo dalla circolazione, questo lo facciamo un po' meno. Non ha senso farlo. Sabrina, dica. Pronto, buonasera, sono dottor Cruciani. Ascolti, volevo solo chiedere, se tutti quei personaggi dell'entourage del Berlusconi si dimettono dalla Camera e dal Senato, spero che non vengano pagati. Chissà che non sia una parte per non aumentare l'IVA. Non ho capito, scusi. Se tutti i personaggi dell'entourage del Berlusconi, della Camera e del Senato, si dimettono, spero che non vengano pagati. Se uno si dimette, che rinuncino a 20.000 euro al mese. Non si va alle elezioni. Questo è interessante, cioè alla fine molti erano preoccupati anche oggi nel PDL, perché ovviamente hanno fatto i mutui, hanno preso degli impegni, non possono rinunciare, dunque quella lettera di dimissione è un po' come perdere il loro salario, dunque c'era molta preoccupazione, però sa, non c'è nessun risparmio, perché morto un papa se ne fa un altro, ha ragione anche lei, subentrano gli altri, non vengono pagati, accantoniamoli per avere un fondo per non aumentare l'IVA. Va bene, Michele, provincia da Reggio Emilia, veloce, dai che c'è la borsa che incombe questo, il discorso della decadenza su Berlusconi, secondo me è una stupidaggine, perché in un paese civile un Berlusconi si dovrebbe dimettere e basta, non c'entra nella Costituzione nella retroattività, che può essere anche vero, però si deve dimettere e basta una persona così, ecco. Sì, Michele, diciamo, questa cosa è condivisa da quella metà degli italiani che hanno sempre votato contro Berlusconi, gli altri invece pensano che i giudici gliel'hanno messa in quel posto e che dunque sia tutta una specie di cospirazione per fottere Berlusconi. In questa situazione, sa, è complicato, uno si dimette, invece quello vuole lottare fino all'ultimo sangue, perché pensa che quelli lo abbiano fottuto, abbiano violato la legge, l'abbiano fregato, addirittura violandola la legge. È una battaglia che va avanti da 20 anni, questo è il punto, per cui uno non può dire beh, sei stato condannato, ma quello che pensa che sia tutta una macchinazione. Borsa. No, guardi, io fino a 2 legislature fa l'ho votato a Berlusconi, quindi sì, ho capito, Michele, però condannato... ho capito, lei l'ha votato, però deve essere consapevole che quando l'ha votato Berlusconi pensava le stesse cose, cioè che la magistratura e che c'erano gruppi di magistrati che lo hanno puntato e che prima o poi magari potevano ottenere un successo. Questo è avvenuto, cioè non è che quando lei l'ha votato Berlusconi pensava delle cose diverse da quelle che pensa adesso, non capisco perché lei si stupisce. Luca era gay e adesso sta con lei. Parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay, adesso sta con lei. Ricostruiamo tutto oggi a venerdì, dunque magari sarà tutto finito tra qualche giorno. Ricostruiamo il caso internazionale. Ospitiamo, lo dico qui in grande trasparenza cosa è accaduto. Allora, noi abbiamo fatto una polemica molto forte, il sottoscritto ha fatto una polemica fortissima nei confronti del Presidente della Camera, signora Boldrini, per alcune affermazioni sugli spot. Cioè alla Boldrini non piace l'idea che uno va, la donna porti il piatto a tavola, serva la colazione, dice una figura antiquata, bisogna superare questa cosa, stronzata, puttanata pazzesca. Noi l'abbiamo criticata, chiama in diretta, vuole intervenire al centralino il signor Guido Barilla, noi diciamo non c'è tempo, lui ha un impegno, rimandiamo al giorno dopo, ci mettiamo d'accordo per un'intervista alle ore 18:30, questo è accaduto. Nessun tranello, nessuna richiesta di intervista, lui ha chiamato, tutto trasparente. Questa è la Zanzara, una casa di vetro. Noi diciamo tutto e voi dite tutto. La frase incriminata, una delle frasi incriminate è questa. Perché non fate un bello spot con una famiglia? Ah, bellissimo. No, diciamo che noi abbiamo una cultura vagamente differente. Per noi, in che senso, scusi? Noi il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. Cioè? La salute, la famiglia, il concetto di famiglia. Cioè non fareste unita, mai uno spot? Il concetto, no, non lo faremo perché la nostra è una famiglia tradizionale. I gay, se vogliono, mangiano un'altra pasta. Tramore, inganni, spesso ci tradivamo. Ma la pasta la mangiano anche, ma noi preferiamo, va bene, ma se gli piace la nostra pasta e la nostra comunicazione la mangiano, se non gli piace e non ci piace quello che diciamo faranno a meno di mangiarla e ne mangeranno un'altra. Ma uno non può piacere sempre a tutti perché piacere, cioè, a lei tutti non farebbe mai uno spot, lei non farebbe mai uno spot con una famiglia omosessuale seduta a un tavolo. No, non lo farei, no. C'è un'altra frase però, aspetta, Povia, Povia. Oh, come stai, Cruciani? Aspetta, saluta Davide che sta andando perché nasce il figlio. No, no, lo devo annunciare, Davide, Urbi e Torbi. Forse nasce il figlio, sta andando via. Ma lo devo annunciare, Urbi e Torbi. Urbi e Torbi, forse, ho detto forse. Ma questa è radio reality radio, forse, sta scappando. Luca dice sono un altro uomo. Evviva! Oh, siamo rimasti da soli, Giuseppe. Oh, come stai, Giuseppe? Bene, tu? Bene. Come va? Io bene, combatto. Guarda, sto preparando un disco che si chiamerà Nuovo Controordine Mondiale, perché il Nuovo Ordine Mondiale non mi piace più, perché è fatto di argomenti triti e ritriti. Per esempio? Per esempio quello di cui stai parlando tu adesso, ma, cioè, i froci, ma tanti dici tu. Altri, insomma, l'entrata nell'euro, il trattato di Lisbona che annulla la Costituzione, i politici che non possono più discutere leggi importanti. Cioè, ma che sei diventato? Messo... Grillino al massimo, cioè il trattato di Lisbona, l'euro, anti-euro sei diventato? No, e invece no, perché il trattato di Lisbona è una cosa importantissima che annulla la Costituzione, che non dà modo poi ai politici di fare leggi perché devono passare al vaglio della Commissione Europea. Questo è Paolo Barnard, altro che Grillini. Cioè, Paolo Barnard, tu sei un seguace di Paolo Barnard. Sei un seguace di Paolo Barnard. Vabbè, senti, poi che ne pensi di questa polemica sugli omosessuali, Barilla, questa polemica mondiale, direi, no? Cioè, ci sono gli argomenti che angosciano, che sono le tasse, l'aumento dell'IVA, la perdita del lavoro, e poi gli argomenti che dividono, che in Italia sono tre: immigrati, Berlusconi e gay. Cioè, non ho capito. Che ne pensi? È una cosa normale. Immi? Non grati, perché molti, cioè? Non sono grati a quello che l'Italia sta facendo per gli immigrati, perché alla fine l'Italia è un paese che accoglie anche troppo, nel senso, molti italiani sono a casa senza lavoro, molti altri come per cui la tu Finta, un po' ne manderesti via di immigrati. Non li manderei via, però insomma, se dicessero la verità al Parlamento, che usano e sfruttano gli immigrati, come abbiamo detto l'altra volta, per portare avanti il PIL, perché l'Italia c'ha un debito vero con l'Europa, forse magari la Vabbè, ma sugli omosessuali che ne pensi di questa? Sei con Barilla te? Io mangerò Barilla tutta la vita, penso, perché non è giusto che una persona... Beh, per esempio l'IKEA, ho saputo che aveva fatto una pubblicità con omosessuali, correggimi se sbaglio. Non mi sembra che ci siano state polemiche, anche se no, perché se no tu mi avresti chiamato, quindi non mi hai chiamato, quindi ho visto che è passata inosservata. Mentre invece la Barilla ha fatto questa dichiarazione con Guido, che ha detto noi non usiamo omosessuali perché per noi la famiglia tradizionale è sacra. Ha detto una cosa normale, perché devono rompere sempre le palle? Ma guarda che non sono i gay, perché io l'ho provato sulla mia pelle con Luca, era gay, cioè sono le loghe. Ma guarda che gay, è pieno, e chi sono le loghe? Chi sono i capi, i burattinai? Le associazioni, le lobby gay, quelle che mi hanno attaccato a Sanremo, ai tempi c'era Grillini, c'era Mancuso, sono sempre i soliti noti, no? Che alla fine fanno una campagna di distrazione, di divisione, di distruzione di massa, che alla fine fanno apparire i gay come strani, diversi ed emarginati. Io te lo giuro, se fossi gay non mi sentirei rappresentato da questi beoti, cioè mi sentirei indignato ad essere rappresentato da questa gente, perché fanno solo casino. Scusa un attimo, ma tu dunque da adesso in poi mangerai per sempre pasta Barilla? Vabbè, sai, solo che i cretini non cambiano idea, però in effetti la Barilla adesso mi sta simpatica, non per quello che ha detto il Guido Barilla, ma perché ha detto una cosa normale che non secondo me non dovremmo neanche stare qua a parlarne, perché davvero sembra di cioè ha detto retorica. Una cosa normale, cosa? Cioè, quella è un capo di un'azienda, magari è stato anche imprudente, diciamo la verità. Ma Cruciani, tu fai imprudente. La zanzara in radio, poi magari dietro sei un piccolo scarafaggetto baccherozzo come me, dietro le quinte. No, ha detto una cosa normalissima. chiarissima. Noi teniamo questa linea, sicuramente la tiene anche la De Cecco e anche l'Agnesi. No, non capito, sì, sicuramente. Dai, facciamo, apriamo una campagna figa e andiamo a chiedere anche alla De Cecco e l'Agnesi se, se farebbero un. No, ma io sono d'accordo con te. Quelli che sono saliti in queste ore sul carro dei vincitori, cioè delle critiche a Guido Barilla dicendo noi siamo aperti, la facessero adesso la pubblicità con, la, con gli omosessuali, la facessero. Facciamo la una bella cosa, il carro, sul carro dei vincitori ci sono i perdenti, questo è chiarissimo, è che il vero rivoluzionario, caro Cruciani, non è quello che va contro il sistema, ma purtroppo il vero rivoluzionario è quello che va contro l'antisistema, perché quelli ricchi stanno nell'antisistema, non nel sistema. Ma che vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che nel giro di 35-40 anni hanno fatto l'antisistema, hanno detto contro il capitalismo, contro le destre neoclassiche, neoliberiste, noi mercantili, noi dobbiamo fare potere al popolo, tutto per i cittadini, tutto il resto si sono arricchiti, adesso fanno quelli con il cuore a sinistra e il portafogli a destra, non lo sappiamo. Ma questa è una supercazzola tua, Giuseppe? Supercazzola un cavolo. Intanto chi è che ci ha portato nell'euro? Chi ci ha portato? Il Trattato di Lisbona, il 13 dicembre 2007, però ma chi ci ha portato? Gli amici compagni, i compagni. Ma tu sei ormai completamente, cioè vuol dire, devoto a, a queste tesi qua, cioè a queste tesi. Non sono di, tesi, oh, tu me le devi di Paolo Barnard, un po' alla Paragone, no? Ma no, sì, Paragone mai gli piacerebbe essere a Paragone. Bagnai, questi qua che vogliono uscire dall'euro. Beh, ma scusa una cosa, meglio uno stato a moneta sovrano o uno stato a moneta puttana? Ma che ne so, moneta puttana questa non è male. No, ma torniamo alla questione dei, torniamo alla questione dei gay, dai, questa storia della pasta Barilla e il boicottaggio. Chi pensa di boicottare che cos'è? Un cretino, uno stupido, un imbecille, una testa di cazzo, cos'è? Vuoi che boicottare chi però? Perché chi è, cioè, in questo momento c'è un grande fenomeno che è gravissimo, che è l'eterofobia. Cioè tu non sei più padrone di dire una cosa, che non sei omofobo, ma sei, cioè sono gli altri che sono eterofobi. Cioè l'eterofobia vuol dire che alla fine una persona non può dire che è a favore della famiglia tradizionale nei suoi spot, anche se è un dirigente d'azienda, prudente, imprudente, tutto quello che vuoi, che subito lo attaccano. Quindi il fenomeno non è più l'omofobia, ma l'eterofobia. Fobia poi vuol dire paura. Paura dell'eterosessuale, di un uomo, una donna che si sposa. Cioè oggi secondo te, c'è l'eterofobia, bisognerebbe fare il reato di eterofobia, perché ormai gli eterosessuali sono considerati delle persone, corrono pericoli. Ma senti, intanto in Parlamento, allora, i grilli minchia, come tu mi hai detto che sono grillino, non sono grillino, te l'ho dimostrato adesso, i grilli minchia si baciano in Parlamento uomini uomini, donne con donne, quando 140.000 aziende l'anno chiudono e l'11% delle persone in Italia non si può curare. L'eterofobia secondo me è il fenomeno più grave nel mondo, perché c'è un messaggio degenerazionale, che io sto scrivendo in un disco che uscirà, che si chiamerà Nuovo Controordine Mondiale, che sta ribaltando incontrovertibilmente tutti i ruoli. Cioè alla fine, se uno vuole passare per normale, non deve ostentare la sua normalità. Se sei normale è inutile che lo fai, è inutile che lo dici, capisci? Ecco perché la voce controcorrente, la voce controcorrente di Giuseppe Povia, che adesso ci canterà Barilla era gay. Com'è che può fare questa canzone, Giuseppe? No, Barilla, no, se avessi cantato Luca è ancora gay e non sta più con lei, Luca dice sono come sono e stasera io mi faccio un uomo, ecco, se avessi cantato una cosa così avrei preso i consensi di tutti gli ipocriti. Beh, invece Barilla, una cosa su Barilla come può essere? Su Barilla adesso in questo momento non no, sempre con Luca era gay. Barilla era gay, adesso sta con Luca lei. Luca era gay, adesso sta con lei. Luca mangia la pasta Barilla, se dice qualcosa contro fa scintilla, ma che cazzo ne so, dai, no, è vero che, però quella non era male, quell'altra al contrario, se avessi cantato sì. Che cosa non era male. Senti, poi mi giudichi la mia voce, com'è la strofa? Luca era gay e adesso sta con lei. No, Luca era gay. Ma la vuoi sentire originale o no? Giudica la mia voce com'è, se è una voce normale, se sono stonato, se sono intonato. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca era gay, vabbè, no, così non si può Luca giudicare. Parla con il cuore in mani. Luca parla con il cuore mani, tra le mani, ed ascolta anche lì Cruciani. No, è bella la tua voce, potresti fare il cantante. Aspetta un po', cantare pure tu, dimmi un po' la strofa normale. Luca era gay e adesso sta con lei, poi che cosa viene? Luca parla mani nelle mani e si ascolta il Peppino Cruciani. Luca parla mani nelle mani e ascolta la zanzara di Cruciani. Dai, sei più bravo tu nella metrica. Fammi una cosa sulla zanzara, dai, fammi una cosa sulla zanzara con Luca era gay. Ti prego. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca ascolta sempre la zanzara. Non me lo resta uno scritto. Sei ancora a casa, Simo? Rudy da Milano, buonasera. Ah, buonasera. Io ascolto la Zanzara dal 2000. Sì, bene. Quando che lei non faceva... esisteva nel 2000, che non esisteva nel 2000, no, comunque va bene lo stesso. Esisteva e come? No, no, no, non esisteva, mi dispiace. Lo dico io che esisteva. Non esisteva. Va bene, esisteva. Allora non esisteva. Comunque lei ma non esisteva, io lo dico io, non esisteva, lo vuole sapere meglio di me. Non esisteva nel 2000. Esisteva, lei faceva il supplente alla mattina alle 11. Ma che c'è? Ma chi? Zanzara. Cosa? Come? Quando? Perché? Come non cosa, esiste? Esiste lei faceva il supplente alla mattina ma alle 11. Ma io ho fatto il supplente. Era fatto alla sera. E vabbè. Lei alla mattina faceva il supplente. Vabbè, lasciamo e bene, adesso va al chirichetto. Vada avanti, vada avanti. No, vada avanti. Allora, vada avanti cretino, nel suo delirio. Vada avanti nel suo delirio. Il cretino è lei. Vada avanti non nel suo delirio. Quella povera Cariatide lì di quel sì. Cantante, non mi ricordo neanche Pirà come si chiama. Sì. Quel pirla lì. Sì, bene. Sì. Allora, quando Barilla esprime un'opinione, sì. Dov'è questo scoop che ha fatto lei? Dov'è lo scoop? Lei è ossessionato dai culatoni. Ma sì. Li presenti a sua moglie, li porti sì. In casa, ci vada in vacanza, vada a fare il camping. Questa sì. È l'ossessione. Qualsiasi cosa è relativa ai culatoni. Ma stiamo diventati matti. Barilla ha espresso una sua opinione. Ha detto, io non lo faccio. Dov'è il problema? Dov'è? Mm. Dov'è? Me lo ma lei dica. Ha ascoltato? Ma glielo chiedo al suo direttore. Lei va a cena con i gay. Perché non fa lo scopo con il suo direttore? Lei ha ascoltato quello che ho detto o no? Ma certo che l'ho ascoltato. No, non ha ascoltato. Non ha ascoltato. Le dico che nel 2000 lei faceva lei, il supplente a lei dov'è? 11. Ma dove va si bene. Trova lei? Dove si trova lei in questo momento? Scusi. Io a casa mia. Casa mia, in che l'indirizzo esatto? Che ci sono un paio di infermieri che stanno arrivando. Ma non dica cagate. Ci sono un paio di infermieri. Ci sono un paio di infermieri. Ci sono un paio. Ma via il culo, lei è quella tonano. Ci sono un paio di infermieri. È nano che si è preso. Ma, sì. Ma cosa fa? Ma chi vuole mangiarla? A me piacciono i nani. A me piacciono i nani, ha capito? Ma a lei piace tutto. A lei piace beh, tutto, sì, vuole fare lo scoop mondiale. Sì. Di che cosa? Sì. Ma quale scoop ha fatto? Rudy, scusa. Quale scoop ha fatto? Ma che problemi ha lei? Deve fare il supplente. Ma che la problemi ha lei? Non è la sua, non è la sua produzione. Ma lei che problemi era ha? Già prima che lei arrivasse. Ma lei che problemi ha? No, il problema è che lei è ossessionato lei dei culatoni. Ah, ha lei ho capito, lei ho capito, ha problemi con sua moglie a casa. Beh, ho no, capito, no, sì. Se li avrà lei. No, ma ho capito, lei è molto lei frustrato. Che parla sempre di culatoni. No, ma lei è molto frustrato, ho capito, è molto frustrato, ho capito sì, benissimo. Frustrato, no, frustrato, guarda. Ma lei è molto frustrato, ma è lei frustrato, sì, probabilmente qualcuno la frusta pure, probabilmente qualcuno la frusta anche, ma insomma quello sì, fa parte sì, del sì. Gioco. Ma quello... ma ci metta tutto quello che vuole, faccia l'intervista al suo direttore. Sì. Vabbè, parli con Confindustria, lei dovrebbero spostargli. Ma lei è un poveraccio. Il programma alla lei è un poveraccio. Lei è un poveraccio. E lasciare, no, lei è un poveraccio. Vabbè, lei è un poveraccio. Fa parte di quella è un cretino. Di quegli elementi folcloristici. Ma la lascio parlare, vada pure. No, ma certo, ma lei è un cretino davvero. Vada, è uno scoop mondiale. Vada. Ma quale scoop? È una vada. Persona che dice quello che pensa. Ma quale scoop è? Vada. Ma lei è ossessionato dai culatoni. Vada. Ma vada nei campi gay, ma si faccia inchiappettare lì. Vabbè, ma lei ma è un poveraccio. Ma cosa vuole? Ma cosa vuole questa ossessione dei gay? Tutto è gay, ma, sì. Ma l'ha finita o no? Prego. Vada allora, vada pure. Industria, penso senta, che caro amico, adesso mi ha rotto i coglioni. Fermo un attimo, abbassate il volume a questo povero stronzo. Un attimo, lei è un cretino, ha capito? Lei è malato in testa, è bacato. Ha dei problemi perché non sa stare al mondo, accetti le diversità e non ci rompe i coglioni a noi che siamo persone normali, ha capito? Noi siamo persone normali, lei è un povero pazzo, un povero demente, è chiaro? Ma l'ha finita o no? È chiaro o no che è un povero demente ma lei? È un povero demente, hai capito? Per conto suo e vado ad appoggiare tutti i culatoni d'Italia del sì, mondo. Sì, ma sì, cosa sì. Va a rompere i coglioni sì. A Barilla? Ma lei è circondato dai froci a casa di intorno sì, a lei? Sì, vieni qua a casa mia, vieni qua nel, che lo nel suo condominio, vieni è circondato. Qua, vieni qua che lo si arrenda, vieni. È circondato, è sì, circondato, sì, sì, è circondato, sì, è circondato. Non sai più che cazzo dire quando è circondato, è circondato. Non sai che cosa dire perché non sai neanche da che parte arriva. Sì. Sei un cazzo, hai capito? Sì, vai, la Confindustria deve prenderti e mandarti fuori dei coglioni. Perché sì. Hai rotto il cazzo. cazzo ormai, certamente non per quello che dici tu, capito? Certamente no, non per quello che dico tu. Io, perché oramai hai rotto i coglioni. Bravo. Hai rotto i coglioni con la tua ossessione dei culatoni. Sì. Se ce l'hai, vai a farti inchiappettare, fine della musica. Così almeno impari, no? Che è quello che fai tu praticamente ogni sera, perché è evidente che tu sei un gay represso. Ma io ti abbraccio fortissimo, ti bacio e do appuntamento a tutti 18:30 lunedì. Ciao. Però che palpebre con sti froci, è prima che Copaone e poi Barilla, che state massacrando le cronache, non se ne può. Voi siete Radio Gay, non siete Radio 24. Questo è un buon titolo. Questo è Radio Gay. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ma di che stiamo parlando? Radio 24. La passione si sente.